Letture di Radio 24. Nei giorni scorsi, le televisioni di tutto il mondo hanno mostrato come sia cambiata Ground Zero dai giorni dell'attentato. Ma non è soltanto il nuovo World Trade Center ad aver subito una radicale trasformazione. È tutta la città di New York, che è in continuo mutamento. Come racconta Riccardo Viale sulle pagine dell'inserto Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Rileggendo mesi fa il giovane Holden di Salinger, confesso di aver provato una sensazione di smarrimento, come se il libro stesse descrivendo una città, New York, a me per lo più ignota. Alberghi, locali, negozi misteriosi, strade che non riuscivano a entrare nella mappa mentale della città, quartieri con luci, animazione e vita sociale ben differente da quella odierna. Solo un particolare del libro mi ha fatto sentire New York familiare: le papere del laghetto a Central Park South e il mistero della loro scomparsa invernale. New York è così, una città in continua mutazione e sperimentazione. Alcuni potrebbero dire è l'emblema della città pop, un flusso continuo di trasformazioni col ritmo e la velocità dei mass media e delle effimere mode del momento. È una città che mitizza e demitizza nello spazio di un mattino. Difficile ritrovare punti di riferimento stabili. Distante anni luce il ritmo tollerante e umano delle città lente del centro Italia. È la città che ha visto, in architettura, l'affermarsi del postmodernismo sul movimento moderno e l'international style. Parafrasando il titolo di un libro dell'artista pop inglese Peter Blake, la forma di New York ha seguito la funzione fino a un certo periodo della sua storia, per accorgersi del fiasco conseguente a seguire le gabbie rigide del modernismo. E da allora è esplosa la febbre della sperimentazione di forme anti-ergonomiche, oggetti non sostenibili e stili antimoderni. Abbiamo assistito al capovolgimento estremo della forma segue la funzione, di impronta modernista, alla funzione segue la forma. Less is a bore, meno è una noia, è diventato lo slogan di questi anni, polemicamente riferito al detto funzionalista di Ludwig Mies van der Rohe, less is more. Questa proliferazione ontologica di nuovi oggetti architettonici e la velocità della loro usura estetica sembra non essere più adeguato alla necessità di riorientamento e sostenibilità dell'individuo della società contemporanea. Quella dell'architettura postmoderna è una crisi che si pone, a mio parere, in parallelo con quella del postmodernismo in filosofia, con l'affermarsi delle nuove riconcettualizzazioni o riscoperte neorealiste. Si veda anche il dibattito in Italia in questi giorni con Ferrari, Seco, Severino e Vattimo. La forma non può essere il baricentro della nostra attività estetica, come di quella epistemica. La forma deve essere al servizio della realtà e della verità, sull'uomo come sulla natura. Una terza via architettonica, fra la cella monacale modernista e l'insalata russa postmodernista, sta emergendo a New York. L'esempio più interessante è l'High Line. Si tratta di un parco pensile creato su 1,5 chilometri di una vecchia linea ferroviaria sopraelevata che univa la parte bassa e occidentale di Manhattan alla 34esima strada, costate in quegli anni 2 miliardi di dollari al valore attuale. Era una linea di treni merci ormai in disuso dagli anni Ottanta, piena di sterpaglie che stava per essere demolita dall'amministrazione di Rudolph Giuliani, dietro la spinta di un gruppo di proprietari locali. Percorreva quartieri allora molto degradati come il Meatpacking District, che raccoglieva le aziende di produzione di insaccati, e nelle vicinanze anche aziende importanti come i laboratori della Bell, la Western Electric e l'azienda alimentare Nabisco. Nel 1999, Joshua David e Robert Hammond, due volenterosi e cocciuti residenti della zona, promuovono la nascita della fondazione Amici della High Line, che ha l'obiettivo di bloccare la costosa distruzione della linea al fine di utilizzarla, perfino con un risparmio finanziario, come spazio pubblico. Il modello di riferimento era la Promenade Plantée di Parigi. Come spesso succede in questo paese, le buone idee trovano subito le gambe su cui camminare. Già nel 2004, l'amministrazione di Michael Bloomberg, convinto sostenitore del progetto, si impegna a stanziare 50 milioni di dollari per la creazione del parco. Grandi sostenitori diventano il finanziere Philip Falcone, la stilista Diane von Furstenberg, suo marito, l'imprenditore dei media Barry Diller, e Andre Balz, proprietario del mitico hotel Chateau Marmont di Los Angeles. Il parco viene disegnato dall'azienda newyorkese di James Corner, con il supporto di architetti, ingegneri e agronomi. La vegetazione prescelta richiama le sterpaglie che erano nate spontaneamente quando la linea era caduta in disuso. La varietà di piante include ben 210 specie. Vengono utilizzati molti materiali, come binari e traverse, che appartenevano alla vecchia linea ferroviaria. Tutta l'operazione viene realizzata in base ai principi di uso sostenibile, conservazione della diversità biologica, risparmio idrico e fragilità dell'ecosistema. La prima parte del parco viene aperta nel 2009 e la seconda a metà del 2011. Il parco non è solo un luogo per passeggiare o rilassarsi, ma anche per assistere a interessanti performance artistiche. Recentemente, Joseph Jaroff ha elaborato un'installazione in ferro e vetro, utilizzando le colonnine divisorie delle finestre dell'Anabisco. Stephen Vitelli ha prodotto un'installazione sonora composta dal suono delle campane attive in New York. La sensazione che si prova camminando lungo questo serpente sopraelevato e lussureggiante, che si dipana zigzagando e lambendo le finestre dei palazzi di West Side, con scorci improvvisi e miraggi sull'Hudson, è di partecipare a un nuovo modo di concepire l'architettura e la città. Un'architettura che riconosce la crisi del turbocapitalismo, della crescita esasperata e dell'abbondanza senza fondo. Un'architettura che affronti quindi la realtà di questo secolo, fatta di nuovi problemi di sostenibilità ambientale e sociale, e rifugga dai solipsismi masturbatori di alcuni creatori postmoderni. Tutto ciò senza dimenticare la bellezza, il valore aggiunto estetico e la valorizzazione economica dei progetti urbani, come nel caso della High Line. Dal lancio dell'idea 10 anni fa ad oggi, essa infatti ha contribuito a trasformare il quartiere del Meatpacking in uno dei più attrattivi e cool della città, aumentando di varie volte il valore immobiliare degli edifici. Sospesi nel vuoto, vicino a palazzi in vetro e cemento dalle forme pop e postmoderne, passando sotto lo Standard Hotel di André Balz, vedendo nelle vicinanze la sede ondulata della internet company EAC creata da Frank Gehry, la High Line sembra volerci sussurrare che proprio dalla semplicità e frugalità possono nascere progetti urbani molto più vivibili e sostenibili di quelli delle rigide geometrie moderniste o delle arzigogolate complessità postmoderne. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Riccardo Viale dal settimanale Domenica, allegato dal Sole 24 Ore, in edicola oggi.